La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. In occasione dell'uscita del libro Europa e Stati Uniti dopo la guerra fredda di Giuseppe Mammarella, questa settimana Dino Pesole dedica il suo approfondimento al periodo compreso tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e la caduta del Muro di Berlino. Momento, quest'ultimo, che segnò l'apertura di una nuova fase storica nella quale siamo tuttora immersi. Ospite ai nostri microfoni lo storico Bruno Bongiovanni, ordinario di storia contemporanea all'Università di Torino e autore del libro Storia della Guerra Fredda, edito dalla Terza. Il crollo del muro di Berlino nel novembre del 1989 e la conseguente dissoluzione dell'ex impero sovietico sono i due eventi che all'inizio degli anni 90 del secolo scorso convenzionalmente vengono considerati come gli eventi che posero fine alla guerra fredda. Cadeva ad un colpo quell'equilibrio basato sulla reciproca minaccia di un nuovo terribile conflitto che aveva di fatto dominato la scena politica internazionale fin dagli anni immediatamente successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Cominciava una nuova era nella quale tuttora siamo immersi. 20 anni che lo storico Giuseppe Mammarella definisce nel suo libro Europa e Stati Uniti dopo la Guerra Fredda, appena pubblicato dal Mulino, come i più intensi e i più drammatici dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale. Stati Uniti ed Europa uscivano dalla guerra fredda molto diversi da come vi erano entrati, sia nelle rispettive identità che nei rapporti reciproci. Gli americani avevano vissuto gli anni del conflitto con l'Unione Sovietica molto più intensamente degli europei. La famosa definizione di Ronald Reagan dell'Unione Sovietica come l'impero del male coglieva questo aspetto che era intrinseco alla sensibilità degli americani. L'Europa, soprattutto dopo la scomparsa di Stalin e l'inizio del disgelo, aveva metabolizzato il pericolo sovietico e quello rappresentato dai vari partiti comunisti nazionali, e sembrava essersi adattata all'esistenza di un confronto che andava giocato più sul piano politico e diplomatico che su quello militare. In questo contesto di mutati rapporti tra le due sponde dell'oceano fa il suo ingresso sullo scenario internazionale l'incubo del terrorismo, il nuovo nemico dell'era moderna. La guerra al terrorismo vedrà l'Europa impegnata al fianco dell'America, ma senza che gli europei ne condividano le urgenze e le strategie. In sostanza, scrive Mammarella, a rischio di sopravvivenza è il mondo multipolare, il cui avvento era stato annunciato quasi mezzo secolo fa e che sta moltiplicando gli attori della politica mondiale. Uno scenario difficilmente prevedibile solo 20 anni fa, quando il mondo voltava pagina con il crollo del muro di Berlino. Questa breve conversazione tra il cancelliere tedesco Helmut Kohl e Mikhail Gorbachev ne dà conto. Io ero a Mosca quando la mattina presto mi arrivò la notizia che il muro non esisteva più. Fisicamente era ancora lì, ma di fatto non esisteva più perché la gente poteva varcare liberamente il confine. Dissi: avete fatto bene, deve essere il popolo a decidere. E tu dov'eri quando l'hai saputo? Ero in Polonia in occasione di una difficile visita istituzionale. C'era ancora il generale come presidente. Sì, è vero. E devo dire che era un uomo duro e poco amichevole. Eravamo insieme quando arrivò la notizia. All'inizio non ci ho creduto, pensavo si trattasse di uno scherzo. Abbiamo in linea il professor Bruno Bongiovanni, che è professore ordinario di storia contemporanea alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Torino. Professor Bongiovanni, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Lei ha scritto un bel libro, Storia della Guerra Fredda, pubblicato dalla Terza in numerose edizioni, che è un punto di riferimento per tutti quanti vogliano occuparsi di questo argomento. E le chiederei, cominciando la nostra conversazione, proprio di focalizzarsi sugli ultimi anni della Guerra Fredda. Ormai in modo convenzionale, il crollo del muro di Berlino del novembre del 1989 è considerato come la data in cui la Guerra Fredda sostanzialmente ha termine. Intanto le chiederei, ma è corretta questa periodizzazione oppure no? Non ne sono tanto convinto che sia corretta. Nel 1954 uscì il primo numero di una rivista celeberrima, letta poi negli anni successivi da molti, cioè Le Monde Diplomatique, che parlava di guerra fredda al passato. E la guerra fredda era considerata finita nel 1953 con la guerra di Corea. Era morto Stalin, Truman era stato sconfitto, si parlava di disgelo, se ne parlò poi anni successivi, però restava un bipolarismo molto acceso, una ripresa continua degli armamenti, ma però in qualche modo c'era un dialogo. Restava un bipolarismo peraltro imperfetto, perché vi erano i non allineati e il mondo era bipolare e tripolare contemporaneamente. Certo, le due grandi potenze, le due superpotenze erano le potenze di gran lunga principale. L'espressione guerra fredda ha continuato a essere usata successivamente, ma sempre meno. È stata forse ripresa, e a buon motivo, nel momento forse più pericoloso che vi sia stato, quello della crisi cubana del 62. Però se lei va a vedere i giornali o se chiunque ci ascolta a vedere i giornali degli anni 70-80, dove pure c'erano l'Afghanistan sotto l'egida sovietica e così via, non si parlava di guerra fredda allora, ci si parlava di un confronto anche duro fra le due superpotenze. L'espressione guerra fredda invece è tornata e in modo dominante, quasi curiosamente dominante, per un periodo di 45 anni che va dal 46 al 91, che è la data veramente decisiva, vale a dire quella della fine dell'Unione Sovietica, quando viene ammainata la bandiera rossa del Cremlino, per in qualche modo dare un senso e un significato a un periodo storico. Ma è un periodo storico che ha al suo interno molte realtà tra loro differenti. La guerra fredda veramente detta è solo quella che va dal 46-47, diciamo, piano Marshall, fino alla fine della guerra di Corea. Poi resta un confronto, un bipolarismo, in certi momenti uno scontro anche armato, anche se per interposti paesi o cose di questo genere, tipo la guerra del Vietnam, dove però gli Stati Uniti erano in prima persona impegnati, e non vi è un unico modo per definire quei 45 anni. Sono stati in modo per me meno imperfetto di definirli, e la Pax Armata sovietico-americana dei 45 anni. Questo, professore, questa Pax Armata comunque ha garantito una sorta, possiamo dire, di equilibrio per molti anni. Dopodiché, quando crolla il muro di Berlino e l'Unione Sovietica si dissolve, che equilibrio poi sostituisce questa Pax Armata? Io è difficile dire, perché si parla di una storia che non, come dire, ancora in corso e così via. Certo, è più difficile paradossalmente parlare di equilibrio dopo il 91. È più facile parlare di equilibrio quando vi sono due grandi potenze armate atomicamente che si confrontano e si scontrano in qualche momento tra di loro, vale a dire l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Dopo c'è un periodo in cui vi è una grande superpotenza degli Stati Uniti che per la prima volta nella loro storia, soprattutto nel periodo di Bush Junior, non sono riluttanti ad autodefinirsi impero, espressione che prima non era usata o veniva usata a proposito dell'Unione Sovietica, e però è un impero imperfetto, perché non è in grado, come dovrebbe essere l'impero, di tenere sotto un controllo omogeneo e unitario il mondo, o almeno una grossa parte del mondo. È un equilibrio squilibrato. Vi sono tante realtà. Huntington, che è morto purtroppo non tanto tempo fa, ha fatto il libro importantissimo, uscito in Italia nel 97 da Garzanti, che era lo scontro delle civiltà, dicendo che, sostenendo che lo scontro ideologico, economico, anche armato, con nuovi tipi di armi che via fra le due superpotenze, era stato sostituito da un conflitto, scontro, differenziazione fra civiltà, l'Occidente, l'Islam, la Russia, il Giappone, la Cina, l'India e così via. È una, eccessiva forse dal mio punto di vista definizione, interpretazione dell'evoluzione del mondo, ma certo in qualche modo descrive meglio un mondo multipolare, che gli Stati Uniti hanno cercato di rendere monopolare o comunque omogeneo, comunque ordinato, qualunque sia il giudizio politico che si possa dare degli Stati Uniti degli ultimi 20 anni, molto diversi tra loro, diverso Clinton da Bush, Bush da Obama e così via, ma questo tentativo non è andato a buon fine, per fortuna cose gravissime non ce ne sono state, ma Afghanistan, Iraq, la questione palestinese continuano a perdurare, anche addirittura ci sono altri momenti di altre faglie da cui emergono cesure, fratture come tra India e Pakistan, dove elementi che non sono più ideologici ma qualche volta sono religiosi o di altro genere, sono gli elementi che sembrano far emergere conflitti di tipo nuovo e che noi modernizzatori, modernisti, ipermodernisti pensavamo del passato e che invece si rivelano ancora attualissimi. Grazie professor Bongiovanni, buona serata. Buona serata a voi, grazie a voi.